Dario Ricci. Questa che stai vedendo è una comune bottiglia di plastica, neanche tra le più belle. Tra pochi giorni si unirà al Great Pacific Garbage Patch, l'isola di plastica nell'Oceano Pacifico tra San Francisco e le isole Hawaii, che è grande 1,5 milioni di chilometri quadrati, circa 3 volte la dimensione della Francia. Il viaggio della nostra bottiglia non comincia però in mare, ma in un villaggio sul fiume Gange in India. Insieme a lei il 90% della plastica presente oggi in mare deriva da solo 10 fiumi. Sono i più inquinati al mondo. Mi chiamo Alex Bellini. Sono un avventuriero e un esploratore. E con la mia prossima spedizione voglio intraprendere lo stesso viaggio che ogni anno compiono milioni di pezzi di plastica. E come loro mi unirò al Great Pacific Garbage Patch. Se sei abituato a navigare in mezzo all'oceano, non è semplice cambiare habitat e decidere di andare a esplorare dei fiumi. E che fiumi poi, fiumi particolari, che hanno una caratteristica comune, quella di essere i più inquinati al mondo. Ten Rivers, One Ocean è il nome del progetto che sta sviluppando Alex Bellini, classe 1978, esploratore e avventuriero di professione. Un progetto che coniuga sport e natura, perché Alex appunto sta attraversando i principali fiumi del pianeta, che ai noi sono anche più inquinati, appunto per testimoniare lo stato della situazione attuale, ma anche per provare a immaginare possibili vie d'uscita e soluzioni. E allora Alex Bellini, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti, buonasera Dario. Alex, raccontaci subito com'è nato questo progetto. Sì, mia moglie proprio a questo proposito è veramente una santa, perché questo progetto ci sta divertendo molto, ci sta impegnando molto, però appunto le cose non vengono gratuitamente, nel senso che passo molto tempo in questi ultimi mesi fuori casa e ho, grazie a Dio, il supporto della mia famiglia e di mia moglie, che assieme a me lavora a questo progetto. Il progetto essenzialmente è la navigazione dei 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo e del Great Pacific Garbage Patch, il grande accumulo di plastica che si trova in mezzo al Pacifico tra San Francisco e le isole Hawaii. In particolare quest'ultima fase del progetto attraverso il Pacifico l'ho già compiuta quest'anno a luglio, e quindi nel corso dell'intervista vi racconterò che cosa ho incontrato e che cosa non ho incontrato in mezzo al Pacifico. È un progetto che mi sta divertendo molto, che mi appassiona, che sta dando nuova energia, nuovo stimolo. L'esploratore oggi serve per documentare come il mondo sta cambiando. È vero, è sempre cambiato e sempre cambierà, ma oggi cambia grazie e soprattutto, forse non grazie, ma soprattutto a causa dell'attività dell'essere umano. Quindi non c'è un momento più propizio per essere esploratore. E allora approfittiamo di averti come guida e immergiamoci insieme, con piacere relativo va detto, causa l'alto tasso di inquinamento, nel Great Pacific Garbage Patch. È un'area molto molto estesa. Su questa superficie estesa, grande, 3 volte la dimensione della Francia, sono disseminati circa 100.000 tonnellate di piccoli pezzi di plastica. Dico piccoli pezzi di plastica perché questa è la maggior parte, insomma, è il tipo di plastica che si può trovare più comunemente nel Pacifico, che è un po' diverso da quello che le persone si aspettano, perché c'è ancora un po' di malinformazione, e molte delle persone che mi hanno seguito quando sono arrivato in mezzo nella parte più densamente inquinata e non hanno visto quella montagna di plastica galleggiante sono rimasti un po' delusi. Quindi, oltre a questi isolotti di plastica, ce ne sono pure particelle di dimensioni infinitesimali. Non dobbiamo pensare che se la plastica è micro lo sia anche il problema, perché è quasi esattamente l'opposto. Tanto più piccola la plastica, quanto più grosso il problema, anche perché diventa poi in termini molto concreti un tema di come poter raccogliere e ripulire l'oceano da questi piccoli frammenti. Tra l'altro, credo sia stato per te un viaggio emozionante, anche perché lo hai fatto a bordo della Rosa di Atacama, una piccola imbarcazione che per te ha un valore affettivo particolare. Sì, un battello che non è nuovo a questo genere di esplorazioni, infatti nel 2006 prima e poi nel 2008 mi ero fatto accompagnare dalla stessa barca a remi per la navigazione dell'Oceano Atlantico e poi dell'Oceano Pacifico, quindi in totale su quella barca avevo già passato oltre 500 giorni, si può dire quindi che la conoscessi bene, però da subito sapevo che questa nuova navigazione mi avrebbe portato a vedere lati nuovi dell'oceano. Nella passata esperienza del 2008, navigando molto a sud o sotto l'equatore, avevo incontrato sì un po' di inquinamento, ma non tanto quanto quello che ho incontrato questa volta, quindi era del tutto nuova questa navigazione. Ecco, invece, che tipo di interazione hai potuto avere con gli animali, gli uccelli, i pesci, con l'ecosistema marino ed oceanico? Ho potuto vedere poco, per la verità, perché non è un ambiente favorevole alla proliferazione di animali. C'è anche però da dire l'esatto opposto, ossia, per quanto possa essere folle il pensiero, però la plastica sta diventando parte dell'ecosistema oceanico, quindi ci sono piccoli organismi che sono piccoli quanto dei ragnetti, che si aggrappano a questi piccoli pezzi di plastica per fare lunghe migrazioni, e quindi sta nascendo una nuova popolazione, si sta ripopolando questo oceano. Se non è più consono alla vita dei grandi cetacei, diventa invece una perfetta condizione per il proliferare di piccoli organismi che si servono della plastica per fare lunghe migrazioni. Questo ha dei lati positivi perché aumenta la biodiversità, ha dei lati negativi perché nessuno ancora oggi sa quali sono le conseguenze di un tale cambiamento nel panorama degli organismi che vivono in mare. Quindi in qualche modo l'ambiente si sta comunque trasformando e predisponendo a sopravvivere, a coesistere rispetto a questa modificazione, a questa invasione di plastica. Senza dimenticare, giusto Alex, che quello che vediamo in superficie o ripeschiamo in acqua è solo, appunto, come si dice, la punta dell'iceberg. La cosa interessante da dire è che delle sette resine più comuni, insomma delle sette resine di plastiche, perché non ne conosco altre resine, quindi delle sette tipi di plastica, solo la metà è galleggiante, l'altra metà, quindi tre o quattro tipi di plastiche non galleggiano, quindi nel momento in cui vengono a contatto con l'acqua, avendo una densità maggiore di quella dell'acqua, tendono ad andare a fondo. Ecco perché poi c'è questa grossa discrepanza tra quello che i ricercatori affermano, ossia che circa 8 milioni di tonnellate all'anno vengono riversate in mare, e l'esigua quantità di plastica che si ritrova a galleggiare sugli oceani, che è più o meno 300.000 tonnellate. Il tema è quindi rispondere alla domanda: dove va a finire il resto della plastica? E una parte di questa plastica finisce in fondo all'oceano, e ci sono delle prove, è documentato attraverso dell'attrezzatura subacquea, che addirittura sul fondale oceanico dell'Oceano Pacifico risiedono quantità di plastica. Quindi nessun luogo è più al sicuro quando si parla di plastica. Secondo me diventa un po' un'utopia pensare di risolvere il problema della plastica semplicemente occupandoci di ripulire l'oceano e la superficie dell'oceano, perché è proprio impossibile questo. Diventa quindi più importante riuscire a fare un'azione preventiva, dobbiamo quindi evitare che la plastica finisca negli oceani. Quindi a questo bisogna prendere, dei provvedimenti. Come darti torto? È quello che si sta cercando, speriamo non troppo lentamente, di fare. E allora ritorniamo per qualche istante sulla terraferma, poi Alex Bellini ci porterà a navigare lungo due tra i più grandi fiumi del mondo, sempre qui a Olimpia. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio. Con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Olimpia. Ten Rivers, One Ocean, questo è il progetto che sta sviluppando Alex Bellini, avventuriero ed esploratore. Navigare, oltre al Pacifico, i 10 fiumi più inquinati al mondo, per testimoniare il loro degrado, ma anche cercare insieme le possibili vie d'uscita da questa situazione sempre più difficile. Alex Bellini, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Buonasera Dario. Alex, ti abbiamo seguito già tra le onde del Pacifico nel Great Pacific Garbage Patch. Ora guidaci in India tra le sponde del Gange, il fiume sacro. Purtroppo in India c'è un fiume che sta morendo anche per mano dell'uomo che lo venera come la dea generatrice del popolo indiano. Credo ci siano dei temi diversi, c'è sicuramente una componente culturale, ossia l'indiano per natura è portato a fare dei doni al Gange, proprio in segno di rispetto. Se 100 anni fa questi doni erano fatti di materiale naturale e quindi biodegradabile, oggi questi prodotti vengono spesso avvolti in plastica e comunque in materiali non degradabili, e i milioni di pellegrini che raggiungono il Gange per distribuire sulla superficie dell'acqua i propri doni creano un grosso impatto all'ecosistema. C'è anche poi la componente di superstizione, ossia il Gange, essendo un fiume sacro, saprà sempre autoregolarsi. È come se il fiume sacro non potrà mai essere impuro. Ecco che questa credenza alimenta l'inquinamento, perché nessuno di fatto se ne prende cura. E poi c'è un elemento anche di superstizione, ossia, forse no, più che superstizione, proprio di ottimismo mal riposto. Tutti quanti, ma anche da questa parte del mondo nostro, quello occidentale, ci aspettiamo sempre che qualcuno prima o poi verrà a salvarci. E così funziona anche in India, dove nessuno muove un dito, perché si spera o si crede che più a sud, verso la foce del fiume, qualcuno si occuperà di raccogliere la plastica, cosa che regolarmente non viene svolta. Quindi Alex, se ho ben capito, l'approccio al problema inquinamento lungo le sponde del Gange è lo stesso, ad esempio, che si ha con la monnezza, con la spazzatura a Roma. Esatto, esattamente, è proprio così, e quella cosa veramente significativa è che tanto più vai lontano, tanto più vedi nelle abitudini, negli occhi, nel comportamento delle persone, cose che poi è di fatto uno specchio, e questo è il bello di viaggiare, perché al di là delle differenze che si possono vedere, no, ad occhio nudo, poi di fatto siamo tutti quanti sulla stessa barca, ma anche siamo tutti quanti equipaggiati con lo stesso pensiero, e quindi ci aspettiamo sempre che qualcun altro farà questo al posto nostro, quando invece oggi è il momento per fermarci, riflettere sul futuro che vogliamo e cominciare da subito a fare qualcosa di diverso, perché non è la nuova, ritrovato tecnologico che potrà salvarci. Quello che potrà veramente salvarci è una profonda trasformazione culturale che sia anche globale, quindi una trasformazione di tutti dal punto di vista culturale. Hai riportato dall'India una serie di fotografie davvero emblematiche. Talvolta la plastica non era la cosa più orrida che si vedeva sulla superficie del fiume. Si stanno attivando delle nuove abitudini, anche un pochettino più compatibili con, adesso vi dirò una cosa un po' scabrosa, però il problema dell'abitudine di carbonizzare i corpi dei defunti e poi lasciarli, disperderli sul fiume, al di là dell'inquinamento psicologico che può creare, perché di fatto un corpo smembrato può lasciare qualche segno nella psiche delle persone che vengono a contatto visivamente col corpo, ma poi c'è anche un problema che il corpo umano nostro in questo momento contiene così tanti materiali pesanti, così tanti prodotti che non sono naturali, che disperdere così tante ceneri nel fiume non è comunque naturale, non fa comunque bene, no? E quindi le nuove metodologie per incenerire i corpi, per cremare i corpi, è quello di conservare le ceneri e disperderle altrove, non sul fiume, che poi ne deve pagare le conseguenze. Altro elemento a metà tra incuria e cultura: i bagni pubblici, che pure lungo le rive e le scalinate che conducono al Gange ci sarebbero, però ecco, dici un po'. Sì, questo è un altro tema di cultura o della tradizione, perché ho visto dei bagni pubblici puliti, vuoti, e fuori dal bagno pubblico un cimitero di escrementi, come se non ci fosse proprio neanche la volontà di fare quello che dobbiamo fare in un luogo protetto e in cui si può raccogliere il materiale organico. Questo va preso in considerazione nel momento in cui si chiede ad un popolo di cambiare le proprie abitudini. Adesso ti racconterò quest'ultimo aneddoto. Però un giorno chiesi a una persona che incontrai vicino al fiume di farmi bollire dell'acqua che avevo appena raccolto da un pozzo proprio sulle sponde del fiume, e questa persona mi ha guardato un po' interdetta, perché non capiva quale fosse la ragione della mia domanda. Allora gli ho spiegato che l'acqua conteneva dei materiali inquinanti, e lui mi dice: il problema è tutto nella tua testa, il problema dell'inquinamento del Gange è tutto nella tua testa, perché guarda, io sono nato e cresciuto in questo paese, ho sempre bevuto l'acqua del Gange e sono sano come un pesce. So che invece sei appena tornato da una nuova navigazione fluviale sempre in Asia. Sì, sono appena tornato dall'Asia, dove ho navigato uno dei cinque fiumi cinesi. La cosa che mi ha sorpreso è che rispetto a quanto fosse stato documentato fino al 2013, in questi ultimi anni il governo cinese ha fatto dei grandi cambiamenti, ha veramente preso iniziativa a proposito di questo. È una cosa che secondo me dovremmo replicare in Italia con pochissimo costo, perché poi capirete perché. Però quello che ho notato è che sulle sponde del fiume ogni tanto ci sono dei pannelli informativi, e su questi pannelli informativi c'è il nome, cognome e il numero di telefono di una persona che è il guardiano di un piccolo pezzo di fiume. Si chiamano Water Chief, quindi i poliziotti dell'acqua, e ce ne sono oltre 200.000 in Cina. Quindi immaginati che individui, persone, ma anche persone pubbliche che ricoprono ruoli pubblici, diventano i responsabili per quel piccolo tratto di fiume nel caso venissero ritrovati dei pezzi di plastica, del materiale inquinante, delle chiazze d'olio, e sono loro stesse responsabili individualmente di andare a raccogliere e a ripulire il fiume. La domanda che pongo a tutti è: quanto sarebbe più efficace e quanto migliorerebbe la qualità dell'ambiente che ci circonda se ognuno di noi prendesse una piccola fetta del fiume, una piccola fetta di un bosco, e se ne occupasse come se fosse parte della propria casa, ok? Secondo me, creando questa forma di responsabilità in tutti noi, potremmo veramente vedere dei cambiamenti radicali, perché poi di fatto si tratta di considerare anche la natura parte di casa nostra, parte della nostra proprietà, perché siamo tutti bravi e capaci a mantenere pulite, no, in ordine casa nostra. Quando poi si tratta di uscire fuori e di pulire, mantenere ordinato, come dire, il parco oppure i luoghi pubblici, lo siamo meno, perché non c'è quell'elemento di proprietà che ci aiuterebbe nel prendere responsabilmente l'iniziativa. Quindi ci stai dicendo che la tanto vituperata Cina è sui temi ambientali in decisa rimonta? Esattamente, considera che Guangzhou, che è la città città in cui ho concluso la navigazione su questo fiume è una mega city di 44 milioni di persone. E io passeggiavo negli ultimi giorni prima che tornassi in Italia lungo il fiume, insomma questa passeggiata che costeggia il fiume, e regolarmente vedevo delle piccole imbarcazioni a motore elettrico con a bordo due persone che con il retino raccoglievano la plastica che galleggiava in superficie. Questi sono i piccoli dettagli, quei piccoli messaggi che mi fanno ben sperare, che invece non ho trovato in altri luoghi, tanto per dire in India non ho avuto questa sensazione. In Cina mi aspettavo di trovare grande caos sotto questo punto di vista, invece ho trovato persone molto attente e molto impegnate a rispettare quello che dall'alto della loro piramide viene calato, quindi insomma anche semplicemente aiutati da questa forma che dall'alto calano delle regole loro al basso eseguono. E il futuro ora, quale sarà il prossimo fiume da navigare? Questo splendido progetto adesso si prende una pausa per occuparmi anche di quest'altra grande progetto familiare che ogni tanto la mia famiglia insomma mi riporta all'ovile e mi chiede di passare un po' di tempo assieme, però al di là di questa nota personale torneremo a navigare gli altri 8 fiumi che rimangono da navigare, e con molta probabilità sarà a partire da marzo o aprile la volta di un fiume in Africa, tra il Nilo e il Niger. Ci sono questi due fiumi altamente inquinanti che aspettano di essere navigati. Alex Bellini, allora, vento in poppa, forza nelle braccia e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te Dario, è stato veramente un piacere parlare con te, io ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.